Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera e soprattutto a questo punto buon anno a quanti ci ascoltano. Ci lasciamo alle spalle il 2011, andiamo verso un 2012 che sicuramente sarà un anno migliore di quello che stiamo per finire. Non è stato un grande anno, però spero che per ciascuno di voi almeno qualche soddisfazione l'abbia lasciata. Come andiamo verso il 2012? Beh, ne parliamo con Bruno Contigiani. Buonasera Contigiani. Buonasera a voi. Bruno Contigiani è autore di vari libri, l'ultimo si intitola Lavorare con lentezza, ecco, ne ha scritti altri, il primo che su questa linea, diciamo, si intitolava Vivere con lentezza, ne abbiamo parlato già in questo programma, un altro Chi va piano non poteva che arrivare a un Lavorare con lentezza, però già il lavorare è già un punto positivo, dedichiamolo a chi un lavoro non ce l'ha e vorrebbe lavorare, quindi è bene che si lavori tutti, però c'è anche un modo per lavorare che non ostacola gli altri e che facilita le situazioni. Allora, perché Contigiani lavorare con lentezza? Ma lavorare con lentezza è una specie di voto verso un tentativo di recuperare il valore del lavoro e far sì che in questo momento è un po' poco considerato, sottopagato, in alcuni casi addirittura non pagato. E soprattutto è un tentativo di farci capire che le cause della crisi sono state prima di tutto cause dovute a mancanza di idee. La crisi è stata inizialmente proprio una crisi di idee, una reazione frenetica, un tentativo di inseguire delle difficoltà a cui andavamo incontro. E quindi l'idea anche nel mondo del lavoro di naturalmente cercare di introdurre questa una strategia, un pensiero a lungo termine, un po' di saggezza, una progettualità, questo è un po' il lavorare con lentezza, il recupero della gentilezza, il recupero del lavoro in team, il recupero dell'attenzione verso gli altri e il recupero anche dell'ascolto. Questo forse ci potrà in qualche modo aiutare a trovare le vie d'uscita e non semplicemente delle scappatoie. Quindi possiamo dire una ricerca della qualità del lavoro rispetto alla quantità, una ricerca dell'utilizzo positivo del tempo. Ecco, un mio vecchio maestro diceva: per fare le cose bene o per farle male ci vuole lo stesso tempo, e quindi è meglio farle bene, danno più soddisfazione e non si devono rifare. Quindi un uso del tempo, diciamo, razionale, che non sia frenetico, che non sia angosciante soprattutto. Sì. Però della passione e un abbandono dell'illusione. Io credo che l'amore per il lavoro, come diceva Primo Levi, è una delle maggiori approssimazioni alla felicità sulla terra. Quindi, siccome appunto non c'è differenza fra un lavoro fatto male e un lavoro fatto bene da un punto di vista della fatica, tutto sommato, se facciamo una cosa bene possiamo anche migliorare la vita degli altri, oltre che la nostra vita, e soprattutto se cerchiamo anche la condivisione, il passaggio delle informazioni, la crescita delle persone che ci sono vicine, probabilmente riusciamo anche ad uscire meno stressati. Ecco, in questo libro ci sono anche dei consigli pratici, dei consigli utili, quello che lei chiama i comandamenti del lavoro, cioè i comandamenti per lavorare con lentezza, ma per lavorare comunque in modo proficuo, non pensare a maggior profitto nel minor tempo possibile, l'unico risultato certo sarà un grandissimo stress, passa le informazioni e cura il vivaio senza timori di chi ti dovrà sostituire, e scollegati dalle nuove tecnologie del tempo libero, rivolgi la tua attenzione ai figli, alla ragazza, a un libro, non riempirti tutti i weekend di impegni, di gite fuori città. Ecco, è più il galateo del buon vivere, cioè il galateo di cercare di vivere bene, questo libro. Sì, è un galateo, ma è anche un tentativo di far capire alle persone che indipendentemente dal ruolo nelle gerarchie del lavoro che occupano, sono in grado di fare la differenza, di fare quella differenza che poi si potrà trasformare in un grosso cambiamento, e quindi ritrovarsi attorno alle persone, attorno all'individuo, e quindi un ripartire proprio anche, come dice il Censis, dagli individui se vogliamo cambiare, e anche sostituendo magari alla parola incremento la parola cambiamento, perché è di questo che abbiamo bisogno, più che abbiamo bisogno, diciamo, di rivedere un po' il paniere del nostro prodotto interno lordo. Ecco, quindi una competizione, però ritornando un po' all'etimologia della parola, competere, cercare insieme qualche un obiettivo, pensare sì. Appunto che il mondo non va avanti se uno ha un vantaggio a discapito di un altro, ma va avanti se tutti e due hanno la possibilità di compiere un passo in più. Quindi una ricerca anche di una società più solidale, più unita, più capace di condividere il lavoro anche, condividere il lavoro magari cercando di guadagnare meno ma guadagnare tutti. Sì, e poi soprattutto il fatto che se vogliamo tornare a competere dobbiamo dare spazio alle idee nuove, per avere nuove idee ci vuole tempo, abbiamo bisogno quasi fisiologico di tempo per la riflessione, la nostra creatività degli anni passati si è sviluppata proprio anche attorno a quello che viene definito questo scheletro contadino della nostra società in trasformazione. Avevamo più tempo per pensare e abbiamo creato cose bellissime. Dobbiamo ritrovare il tempo per pensare le cose nuove che possono rilanciarci. Ricordati che non tutto è urgente, alcune cose sono addirittura inutili, prendi tempo prima di avviarle, è un altro comandamento di questo libro, sii ambizioso e altruista. Ecco, alcune cose ricordano un po' la filosofia di Domenico De Masi, il suo ozio creativo, la ricerca di un'umanità, in fondo in questa società ipertecnologica, tornare un po' ai fondamenti dell'umanità, delle relazioni, dei sentimenti, delle emozioni, può essere una maniera per rispondere anche a quella crisi che ci ha un po' travolto in quest'ultimo anno e per guardare con un po' più di fiducia a questo 2012. Beh sì, è un modo per ritrovarci, è un modo per capire in che direzione andare. De Masi è stato e è tuttora un grande maestro e è proprio dal tema della creatività che dobbiamo ripartire, ritrovare proprio il tempo delle idee e crearci un tempo delle idee. Quasi dovrebbe essere obbligatorio lasciare spazio alle idee nelle aziende. Le grandi aziende di oggi pensiamo ad Apple, sono ripartite a partire da nuove idee, non sono certo ripartite sul fatto che hanno fatto dei prodotti meno costosi, hanno fatto dei prodotti nuovi, hanno tirato fuori qualche cosa che prima non c'è, hanno creato qualche cosa. E in questo senso l'Italia ha una grande tradizione, la tradizione appunto delle idee, del bello, della gentilezza, che si contrappone un po', come dice nel libro, all'Italia delle chiacchiere, della furbizia, della cialtroneria, di chi non fa nulla e di chi non fa nulla si giustifica anche, però ecco il cercare un modo per mettere a frutto i talenti di ciascuno ma anche i talenti del paese, forse abbiamo perso anche questa prospettiva, può essere anche questo un augurio per il 2012, Contigiani? Beh certo che è un augurio per il 2012, è un augurio per tutti noi, perché in noi ci sono le forze in grado di farci ripartire, si tratta di ridare energia, si tratta di riacquistare un minimo di fiducia, si tratta di capire in che direzione andare, quindi smetterla di parlare semplicemente di piccole azioni, di piccole cose che possono in qualche modo rattoppare la situazione attuale. Certo, sono cose necessarie, ma dobbiamo capire quale sarà il nostro futuro e questo è quasi un dovere non solo per noi ma per le persone che ci seguiranno. Un'ultima citazione dal libro: se sei un manager, se sei un impiegato, se sei una commessa, non dimenticare di essere ambizioso e altruista e di dare il tuo piccolo colpo d'ali di farfalla, la differenza che ognuno di noi è in grado di fare ricostruendo la fiducia, la grande vittima di questa ultima profondissima crisi, una fiducia anche nel sistema, una fiducia nelle persone, una fiducia in fondo che si possa uscire, ma anche appunto come diceva, con soluzioni nuove. Non esistono ricette vecchie per vecchi problemi, esistono ricette nuove per nuovi problemi, idee nuove, e quindi dobbiamo avere la fiducia di avere e soprattutto dare fiducia a chi le ha, Contigiani. Sì, imparare, uscire un po' dallo schema della precarietà e entrare secondo me nello schema dell'incertezza, cioè la precarietà ci lega al passato, non ci fa pensare al futuro, ci ancora al passato. L'incertezza fa sì che noi se accettiamo l'incertezza e non la vediamo come un pericolo, pensiamo al futuro, quindi svincolarci da quello che abbiamo avuto negli anni passati, pensare che il domani non è uguale al nostro ieri e quindi imparare a vivere questo presente e capire che sarà una navigazione difficile, ma nella quale riusciremo a evitare gli iceberg. Ecco, in questa navigazione, forse più che guardare alle previsioni, alle prospettive, ai grandi esperti che prevedono cosa potrà esserci l'anno prossimo, possiamo pensare che il futuro è quello che noi ci creiamo, e ci creiamo anche sulla base dei buoni consigli di un libro come Lavorare con lentezza, lo ricordo, di Bruno Contigiani, che ringrazio e cui facciamo gli auguri di buon anno. Grazie a voi, buon anno. Editore Dalai, le pagine 112 sono 13 euro, ma Vivere con lentezza è anche un sito internet www.viverecollentezza.it. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Pietro Loccorte in regia e a Luca Cremonese in redazione. Buon anno ancora a tutti voi.